Davanti a voi ci sono 12 uova numerate, partendo da 1. La sequenza di Fibonacci inizia con 0, 1, 1, 2, 3, 5. Ogni numero è la somma dei due precedenti. Quale indice corrisponde al numero 21 della sequenza?